Riflessi d'Oltretevere. Una buona domenica da Katia Caramelli. Ha vinto il premio Marisa Belisario. È madre Maria Nazarena di Paolo, superiora delle missionarie della dottrina cristiana. Ha preso carta e penna, scritto al ministro Tremonti per denunciare la situazione che lei e le consorelle ogni giorno vivono all'Aquila, devastata dal terremoto. Nessuno pensa a ricostruire, dice al microfono di Cristina Carpinelli. I bambini della Bolivia, le bambine della Bolivia ci hanno mandato i lavori da vendere, ma non mandate i soldi a noi questa volta, teneteli per voi perché avete più bisogno di noi. Ma io la solidarietà la devo trovare all'Africa, alla Bolivia, e non la trovo in coloro che ci governano, ma non lo faccio per me, lo faccio per le famiglie, lo faccio per i bambini. Noi vediamo la nostra città dietro le reti e questo diciamo crea angoscia ai ragazzi che non la frequentano più, a parte che si è decentrata la città perché ci sono 19 quartieri nuovi che hanno la casa ma non hanno i luoghi di incontro. I giovani necessariamente secondo me dovranno andarsene perché L'Aquila è una città dove si studia. Uno sa che deve arrivare all'università, però poi cosa fanno? La città non promette più nulla. La fascia che più ci preoccupa, che non sa che cosa fare, che si sta sbandando, è l'adolescenza, perché si trovano imbambolati e sono letteralmente allo sbando. L'estate è ormai cominciata e sono tantissime le persone che scelgono il turismo religioso per trascorrere un periodo di vacanza, un settore che non risente della crisi economica, come ci conferma Don Fabrizio Bagnara dell'Opera Romana Pellegrinaggi. Quest'estate si sta presentando a noi come un'estate di grande lavoro perché stanno crescendo le richieste per grandi mete, soprattutto le mete verso la Terra Santa e i paesi dell'antica tradizione cristiana dei primi tempi, quindi Siria, Turchia, Egitto e così via. Già prenotati dal mese di luglio ad ottobre abbiamo più di 6.500 persone. 222 gruppi già programmati ad oggi, quindi destinati anche a crescere come numeri, solo per la Terra Santa. Sta andando moltissimo la richiesta di pellegrinaggi verso Fatima e Santiago de Compostela, complice il fatto che quest'anno Santiago de Compostela vive il giubileo, perché ogni volta che il 25 di luglio, festa di San Giacomo, cade di domenica, si celebra l'anno santo. Le previsioni anche per il prossimo anno sono molto interessanti perché il prossimo anno a Santiago si celebrano invece 1000 anni di fondazione della Chiesa, della Cattedrale di Santiago. Quanto riguarda l'Italia, noi abbiamo superato di gran lunga le previsioni per quanto riguarda l'accoglienza su Roma e dal 29 di giugno apriremo il carcere Mamertino, che è rimasto chiuso per moltissimi anni, che è il luogo della prigione più antica di Roma, dove è stato incarcerato San Pietro. Si chiama Sotto lo stesso cielo, è la cantata per coro ed orchestra di Giovanni Allevi, che il compositore e pianista, la cui tournée italiana è cominciata ieri, ha consegnato in anteprima al Papa. L'opera si ispira al pensiero del gesuita padre Matteo Ricci. Padre Matteo Ricci è stato il primo intellettuale religioso che 400 anni fa è praticamente entrato alla corte dell'imperatore cinese ed è una figura molto stimata, molto molto riconosciuta più in Cina che qui in Italia. Ha un pensiero, una filosofia che riassume per la prima volta l'importanza della convivenza pacifica tra i popoli. Ha voluto dedicare al suo pensiero una cantata sacra per soli, coro e orchestra, quindi per quattro solisti, un coro polifonico e l'orchestra sinfonica, dedicata al pensiero, alle parole di padre Matteo Ricci. Ecco, la prima stesura dell'opera lei l'ha consegnata in anteprima al Papa. Com'è andato questo incontro? È stato molto emozionante, Così per drammatizzare ho detto che mi sembrava di fare di nuovo la cresima, perché appunto ero in fila per ricevere l'udienza, ma sotto braccio avevo la partitura della mia cantata sacra. Mi sono emozionato perché mi è sembrato di rivivere un gesto che comunque si ripete e si è ripetuto per tante volte nella storia. Il compositore che presenta a Santo Padre la propria partitura di una musica sacra. Non so, un brivido mi ha percorso. E sì, che il Papa è anche un intenditore di musica. E infatti è successo che nel momento della consegna Benedetto XVI abbia aperto la partitura e quindi insieme ci siamo messi un po' a discutere così, ad analizzarla velocemente. Ora c'è Don Willy Volontino e ci risentiamo domenica prossima. Più sacro che profano. Il celibato dei preti non sembra essere di moda. Perché si pensa che debba essere superata questa forma di vita dei preti? La prima causa potrebbe essere individuata nella mancanza di vocazione al sacerdozio e quindi l'impossibilità di offrire a piene mani l'Eucaristia domenicale nelle comunità cristiane. Ma non mi pare questa la ragione più adeguata per il superamento del celibato dei sacerdoti. La causa è piuttosto una sorta di cedimento strutturale infiltratosi nella Chiesa e generato da una mentalità che sui valori e sugli ideali gioca al ribasso. Ma il Vangelo non va certamente in questa direzione. Cristo non ha chiamato a sé dei funzionari, bensì dei lavoratori, che erano pronti a lasciare padre, madre, figli, campi e anche la moglie. E non era certamente un per modo di dire da parte di Cristo. Altrimenti sta sempre il monito del Signore: volete andarvene anche voi. Quindi puntare sui preti sposati per la comunità cristiana può essere anche una scelta di comodo rispetto a un ideale di vita esigente che Cristo ha chiesto ai suoi discepoli. Se l'ideale del prete è la conformazione integrale della vita sul modello di quella di Cristo, non ci possono essere molte altre scelte. Costi quel che costi, evidentemente delle eccezioni si possono avvertire, ma come si suol dire, in questo caso l'eccezione deve confermare la regola, cioè rimanere per noi preti in quella condizione di vita come Cristo ha desiderato che i suoi primi discepoli rimanessero. Più che rinuncia del celibato, il punto centrale per noi preti, ma anche per il semplice fedele cristiano, è che si viva la propria vita come l'avventura di un grande amore per l'uomo e per la Chiesa.